Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e nove minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia e la giornata economica commentata come ogni giorno. Alle volte ritornano, potremmo dire, citando un vecchio film che secondo me era anche un film horror. In questo caso non so se sia un film horror, ma mi riferisco chiaramente al ponte sullo stretto, la dichiarazione di oggi del Presidente del Consiglio in occasione della celebrazione del gruppo Salini in Pregilo ricordando come secondo Renzi si creerebbero 100.000 posti di lavoro. Allora, di tutto si può ragionare, ci mancherebbe. Tra l'altro, siccome, se non ricordo male, il copyright fu di Berlusconi, già vi ragionammo molto in quegli anni, quando fu creata la società per il ponte sullo Stretto di Messina, furono dati i primi studi di fattibilità, c'era anche una multa da pagare in caso di rinuncia, e pur accogliendo anche interventi di chi era molto a favore del ponte sullo stretto, abbiamo sempre detto attenzione alle priorità e attenzione a capire se poi quello è semplicemente una grande opera che però resta monca perché resta l'imbuto poi ferroviario in Sicilia, o se è parte di un progetto diverso e più articolato. Ora, è vero che oggi commenteremo anche la posizione che sta emergendo in Europa, che è una posizione favorevole all'Italia, mi riferisco ai conti pubblici in vista della manovra. Oggi l'Unione Europea ha fatto sapere di essere propensa a concedere all'Italia un deficit di almeno il 2,3%. Cosa vuol dire? Vuol dire che siccome noi avevamo promesso che nel 2017 il deficit sarebbe sceso all'1,8% del PIL, se l'Unione Europea ci permette di tenerlo al 2,5%, sono 0,5 punti, sono quasi 8 miliardi di euro di maggiore flessibilità, cioè 8 miliardi di euro che non dobbiamo tagliare e recuperare, che possiamo spendere o perlomeno non tagliare. Non è una cosa da poco. Tra l'altro, in questo l'Europa ha fatto sapere, lo ha detto il commissario agli affari economici Pierre Moscovici, ha detto attenzione, in questa concessione viene tenuto conto delle emergenze sono già previste dal patto di stabilità, cioè eventi eccezionali, quindi sisma dell'Italia centrale e flussi migratori. È sulla base di questo che verrebbe giustificata anche una maggiore flessibilità all'Italia, non perché il calcolo sia di 8 miliardi complessivi, ma insomma è il viatico, l'imprimatur per giustificare una maggiore flessibilità. Detto questo, ora, se già otteniamo con difficoltà un po' di flessibilità, ragionare di ponte sullo stretto in questo momento o è all'interno di un piano sistematico dei trasporti, e anche sistemico più che sistematico, oppure onestamente acquisisce i contorni di un annuncio di carattere politico, elettorale, e non altro, perché con i margini stretti che abbiamo di flessibilità, con una spending review che ancora deve produrre i suoi effetti, e con un'Europa che questa volta, è brutto dirlo, ma per i flussi migratori e per il terremoto è più propensa a darci flessibilità, ora io vorrei capire da dove arriverebbero queste risorse, se devo ragionare concretamente su questa proposta, oppure prendere atto che il Presidente del Consiglio è favorevole al ponte sullo stretto e che diciamo resta una dichiarazione di intenti. In realtà non è proprio così, perché tra l'altro lo stesso Pietro Salini ha detto di essere pronto a ripartire con il progetto del ponte sullo stretto di Messina anche domani. Se lo facessimo lo completeremmo in 6 anni. E tra l'altro il Presidente dei Deputati Maurizio Lupi di AP ha detto, soddisfatto della proposta di Renzi, chiediamo alla capogruppo che si terrà giovedì di scrivere la nostra proposta di legge sul ponte sullo stretto nel calendario dei prossimi 3 mesi. Serve una legge che dica che il ponte si realizza. Invece l'Osservatorio Nazionale sulle liberalizzazioni sui trasporti sostiene, si chiama ONLIT, che nessuna analisi tecnico-economica giustifichi la necessità del ponte sullo stretto di Messina, che rappresenta un investimento inefficiente. Ora, personalmente, per quello che vale, io sono dell'idea che sia tutto tranne che una priorità sto ponte sullo stretto. Finiamo la Salerno-Reggio Calabria, soprattutto finiamo l'alta velocità dando più risorse da Milano a Venezia e poi l'alta capacità, domani esce il piano delle ferrovie dello Stato, l'alta capacità sulla Venezia-Trieste, cioè creiamo la T dell'alta velocità, portiamo a... ma da lì a ragionare sul ponte, sullo stretto come elemento di discrimine, boh, sarei molto molto cauto. Ne parleremo, ma ne parleremo anche alla luce dei conti economici. In apertura con l'economista Luigi Zingales parleremo invece dell'austerity, ma anche delle vicende bancarie. Ieri ci siamo molto occupati di Deutsche Bank e Monte dei Paschi, oggi Zingales ne ha già scritto nei mesi passati, e cercheremo di capire se vi sia un'affinità, come lui scrisse in tempi non sospetti, era luglio di quest'anno, tra Deutsche Bank e Monte dei Paschi, e anche la posizione che ha lasciato perplessi molti di un'eventuale rinuncia all'euro come provocazione se si dimostrasse che quella contro l'austerity è una battaglia persa. La borsa, meno 1% Milano, meno 0,50 Parigi, meno 0,60 o meno 0,70 Francoforte, Londra mezzo punto percentuale di calo, bene Luxottica più 2%, Monte dei Paschi più 1,70, FinecoBank pure, Snam più 1,30, Mediolanum più 0,70, negativi invece di nuovo e anche oggi molti titoli bancari, tutti gli altri, bancari, assicurativi, risparmio gestito, Azimut meno 3,5%, Unicredit meno 3%, Mediobanca meno 3%, Banca Popolare meno 3%, Unipol meno 2,80% come UbiBanca, Pop Milano meno 2% come la Popolare Emilia Romagna e Intesa San Paolo. Perde invece il 2,30% Fiat, il 2% anche Saipem, l'1,80% Leonardo Finmeccanica, l'1,60% il calo di Telecom Italia e di Tenaris, euro a quota 1,12, 1,119 nei confronti del dollaro. 349-238-6666 per i vostri sms e per WhatsApp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Ultimo tema che tratteremo, a grande richiesta, in realtà è un tema molto serio, lo shock sul settore del trasporto marittimo, che sta tra l'altro danneggiando anche e soprattutto le banche, alcune banche tedesche esposte da quello che si capisce per oltre 80 miliardi di euro. Le prime 5 banche in Germania avrebbero a bilancio prestiti nei confronti del settore dello shipping di 80 miliardi di euro. Cosa è successo? Lo scorso 31 agosto il colosso dei cargo marittimi, il sudcoreana Hanjin Shipping, ha dichiarato bancarotta e, come abbiamo raccontato, 86 navi con carichi complessivi per quasi 15 miliardi di dollari hanno navigato in mare aperto senza che nessuno porto li accogliesse, per timore che poi i servizi di nolo non sarebbero stati pagati. La fermata in un porto costa mediamente 35.000 dollari. È comunque il segnale di un settore in gravissima difficoltà, tant'è che 11 dei 12 più grandi operatori globali nello shipping hanno riportato nell'ultimo esercizio perdite molto molto pesanti. Sta rallentando il commercio globale e anche la concorrenza tra gli operatori forse è eccessiva, o forse ci sono troppi operatori. Ne parleremo tra circa mezz'ora, rapidamente le altre notizie in breve. Allora, andiamo con i dati come sempre internazionali. Oggi anche l'Organizzazione Mondiale del Commercio, per ultima, ma insomma, segnala come il 2016 sarà un anno in cui il commercio, quindi ci colleghiamo anche al tema dello shipping, dei cargo, il commercio registrerà il tasso più basso dalla crisi finanziaria dal 2007. E praticamente la crescita del commercio mondiale dovrebbe essere inferiore al previsto, raggiungendo appena l'1,7%, contro stime ad aprile del 2,8% di crescita, e un rallentamento significativo si avrà anche l'anno prossimo. Invece che crescere sostanzialmente del 3,6%, si crescerà tra l'1,8 e il 3%. Il motivo si chiama contrazione degli scambi di merci e rallentamento della crescita economica soprattutto in Cina e in Brasile, ma anche In Nord America, dove invece nel 2014-2015 verrà stato un aumento molto forte delle importazioni e quindi anche del commercio verso gli Stati Uniti. Su questo si concentrano i 100 secondi di Radio 24, Sole 24 Ore, come sempre trasmessi anche su RDS, oggi a firma del vice direttore del Sole 24 Ore, Alberto Orioli. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alberto Orioli. C'è un indicatore che ci dà l'idea di quanto il mondo si stia restringendo e naturalmente deve farci paura. È il dato sulla crescita del commercio mondiale che il WTO, l'organizzazione che regola appunto il commercio del pianeta, ha annunciato oggi. Beh, nel 2016 si chiuderà con un aumento dell'1,7%, ben al di sotto di quanto era stato previsto in primavera, quando lo stesso WTO indicava un tasso di crescita al 2,8%. È il rallentamento più forte dall'inizio della grande crisi finanziaria del 2008 e soprattutto si accompagna a un dato in frenata anche per il PIL mondiale, che si fermerà al 2,2%, e questo anche il dato peggiore dal 2009. Sono riviste a ribasso anche le stime per il 2017. La crescita del commercio mondiale, insomma, viene indicata in una forchetta tra l'1,8 e il 3,1% contro il 3,6 registrato precedentemente. Il mondo è appeso soprattutto alla forza degli acquisti di cinesi e indiani. C'è un rallentamento impressionante della crescita del commercio che dovrebbe far scattare un campanello d'allarme, ha commentato il direttore generale della WTO Roberto Azevedo. I protezionismi, i dazi, i muri, il populismo neonazionalista hanno questo come conseguenza, la riduzione degli scambi. Ma se nel mondo si riducono gli scambi, l'economia naturalmente batte in testa e la crescita ne risente anche in modo violento. La difficoltà a far approvare rapidamente il trattato commerciale tra Europa e Canada e il congelamento del trattato tra Europa e Stati Uniti sono solo gli ultimi due capitoli di questa involuzione, che certo non fa bene alla debole, debolissima ripresa dell'Europa e dell'Italia, e naturalmente non sarà l'autarchia a trarci d'impaccio. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Allora, vedo già molti messaggi, come era prevedibile, sul ponte, sullo stretto. Mi scrive un ascoltatore: ma come, è anni che lei dice, chiede investimenti pubblici, ora il ponte non le va bene, che c'entra il deficit annuale con un investimento pluriennale? Beh, insomma, l'investimento può essere pluriennale, ma proprio perché lo spalmi per anni ti va a cascare sul deficit che fai ogni anno, quindi peggio mi sento. Non è neanche solo per il 2000, per la legge di stabilità 2017, sarebbe per i prossimi anni. No, ma il punto è un altro. Uno può essere a favore degli investimenti pubblici, ma ritenere che un investimento da 5 miliardi come ponte sullo stretto non sia il miglior modo di spendere questi 5 miliardi. Per esempio, tutto il piano scuola edilizia scolastica è al netto di questo, perché sennò sappiamo che dal punto di vista economico la microedilizia o l'edilizia minore sul territorio ha un impatto molto maggiore dal punto di vista del volano economico e dei consumi rispetto alla grande opera. E poi ho solo detto, possiamo sistemare, visto che quando parliamo con le Ferrovie dello Stato o con altri soggetti, i tempi di realizzazione dell'alta velocità e di alcune sono ancora lunghi, possiamo chiudere prima quelle opere? Cioè, non vorrei che poi tra l'altro il ponte sullo stretto, ma non voglio anticipare il tema, ma ci è già costato 1 miliardo, nel senso che il ponte sullo stretto ci è costato 1 miliardo. Solo Mario Monti mise a suo tempo, poi andrò a riprendere i dati, 300 milioni di euro per liquidare nel 2013 la società Ponte sullo Stretto di Messina. Abbiamo speso complessivamente, assieme a questi 300 milioni, 1 miliardo di euro tra studi di fattibilità, penali da pagare e liquidazione della società. Quindi questo ci è già costato. Dopodiché, ripeto, nessuno ha la verità rivelata. Personalmente, se ci sono 4-5 miliardi da spendere nei prossimi anni, preferirei spenderli in altre forme di investimenti, anche infrastrutturali e anche sulla digitalizzazione, sull'edilizia scolastica, sulla messa in sicurezza, diciamo, delle zone a rischio, non solo sismico ma anche alluvionale. Cioè, opere sul territorio, il volano economico è più forte. Andiamo avanti. Comunque, per quello che riguarda invece gli Stati Uniti e la Germania, continua, molti in queste sanzioni e controsanzioni vedono una specie di guerra sotto traccia. Mi riferisco da un lato alla Volkswagen, di nuovo nel mirino della della stampa americana, perché il Dipartimento della Giustizia starebbe valutando la massima multa possibile da poter infliggere alla Volkswagen per lo scandalo delle emissioni, questo però senza causare il fallimento del colosso automobilistico tedesco. Non si ha ancora una cifra esatta, da quello che si è capito punterebbe a mantenere a 20 miliardi la multa, potrebbe avere, diciamo, potrebbe essere anche di più. Volkswagen ha liquidità netta per quasi 29 miliardi, ma è calata molto in borsa oggi, oltre il 4%, proprio sui timori di una stangata dagli Stati Uniti, così come sta calando di nuovo Deutsche Bank in borsa, e stanno schizzando i famosi credit default swaps, quindi il premio assicurativo che si paga per assicurarsi dal rischio fallimento di Deutsche Bank. Sono saliti a 524 centesimi, 25 centesimi in più, massimo storico per quanto riguarda appunto il premio che si deve pagare per assicurarsi sul rischio di un fallimento del debito subordinato di Deutsche Bank. E sulla Germania oggi è intervenuto anche il Presidente del Consiglio Renzi, il quale ha ricordato appunto che gli interventi sull'edilizia scolastica saranno fuori dal patto di stabilità, e riferendosi chiaramente ai terremoti. Poi ha detto, attenzione, il riferimento alla Germania, chi ha 89 miliardi di surplus commerciale fa male l'Europa, cioè l'Europa ha sempre detto anche la Germania puoi avere al massimo il 6% di avanzo commerciale tra import e export, non il 9% come farei quest'anno, se no c'è uno squilibrio verso l'alto, così come non ci deve essere uno squilibrio verso il basso, ossia il deficit non può essere superiore al 3%. Sentiamo Renzi su chi fa male all'Europa. In altri termini, per non girare troppo a vuoto, l'Europa deve ripartire dagli investimenti. Se un paese, uno a caso, ha 89 miliardi di surplus commerciale, quel paese non sta facendo solo male a se stesso, sta facendo male all'Europa. Bisogna tornare ad avere una dimensione in cui gli investimenti sono la priorità. Allora, io vorrei e volevo parlare di Deutsche Bank, del Monte dei Paschi, di questa Germania che predica l'austerity però poi non sta nelle regole europee quanto al surplus commerciale, e di questa dichiarazione che l'economista Luigi Zingales, che insegna economia e finanza, imprese e finanza all'Università di Chicago ed è editorialista del Sole 24 Ore, questa dichiarazione che è abbastanza a sorpresa ha rilasciato. Però non posso non collegarmi, visto che qui parliamo di austerity, non austerity, manovre più o meno keynesiane sulle infrastrutture, sugli investimenti, non posso collegarmi alla notizia di oggi, né ringraziare il professor Luigi Zingales per essere in collegamento con noi. Buonasera. Buonasera. Poi arriviamo a Deutsche Bank, al surplus e all'austerity, per cui le dice, insomma, quasi quasi sia una battaglia persa, bisogna ripensare il senso dello stare nell'area euro. Però il ponte sullo stretto, da economista glielo chiedo, rientra in quelle classiche misure di carattere keynesiano sugli investimenti, oppure sì, è ovvio che è un investimento, ma se ne possono fare altri con maggiori ricadute sull'economia territoriale e sul potere d'acquisto locale? Beh, mi sembra che il ponte di Messina sullo stretto rappresenti esattamente la tipica manovra keynesiana di scavare le buche e poi riempirle. Nel senso, se questo è quello che fa andare avanti l'economia, benissimo. In realtà a me sembra che sia più il regalo, il premio di consolazione per le mancate Olimpiadi dato a tutti i costruttori. Sappiamo già che i costruttori hanno beneficiato, come lei ricordava prima, grandemente anche del ponte sullo stretto che non c'è stato, perché hanno ricevuto una penale molto generosa, e adesso probabilmente ne avranno un'altra. Quindi, allora, ricordiamo le buche, che se non ricordo male fu Keynes, ma comunque Roosevelt lo applicò, che diceva è meglio che uno abbia un lavoro e piuttosto scavi una buca e poi qualcun altro la ricopra, piuttosto che non lavoro. Questo era per rispondere alla crisi del 29, in cui al di là delle buche improduttive, vado a memoria, si fece il Tennessee Valley Authority Act, si fecero grandi opere infrastrutturali di dighe, cioè si fecero non solo le buche, però il paradosso era meglio che uno scavi una buca e qualcun altro venga pagato per riempirla la notte, così due persone lavorano e l'economia riparte, che tenere due persone a casa e l'economia non ripartirà mai. ovvio però, Zingales, che noi preferiamo non scavare una buca per poi ricoprirla, ma fare un'opera che poi resti. Allora io gli dicevo... ci sono dei dubbi. Vabbè. No, ma dico, da un punto di vista, adesso non voglio andare nella parte politica, però da un punto di vista economico, l'impatto di 5 miliardi messi sul ponte o l'impatto di 5 miliardi messi per mille opere, per esempio di edilizia scolastica, per esempio di infrastrutturazione digitale, per esempio di completamento di varie opere sospese, è uguale o no? Cioè questi 5 miliardi sono sempre uguali o no? Beh, dunque, per fare un'analisi seria uno deve fare un'analisi seria, nel senso che al di là del, diciamo, numero globale, possiamo guardare un'analisi macroeconomica, diciamo, aumentiamo gli investimenti, questo in media ha un impatto di tanto. Poi diciamo, sono tutti gli investimenti uguali? Di nuovo, guardiamo alla domanda aggregata immediata o agli effetti sulla produttività nel lungo periodo. Se guardiamo alla domanda aggregata, uno deve guardare la propensione ad acquistare localmente verso internazionalmente, quindi penso che un ponte sullo stretto, probabilmente una componente di acquisti esteri più forte che una ristrutturazione di una scuola a livello locale. Se poi guardiamo invece la produttività nel lungo periodo, qui diventa ancora più difficile, cioè farlo al volo non è facilissimo, perché richiede capire come questo aumenta la capacità produttiva locale, e quindi la scuola l'aumenta, nel senso che non ammazza le persone, è cosa importante, il ponte può aumentarla perché aumenta il commercio con la Sicilia, però insomma non è una cosa così facile da fare al volo. No, anche perché quello che a me non convince, lo dico in maniera molto chiara così, è che se tu fai solo il ponte ma non è all'interno di un pacchetto di un piano portuale, per esempio Gioia Tauro sappiamo che è in difficoltà, dobbiamo capire cosa succederà alle rete ferroviarie della Sicilia, che senso ha risparmiare mezz'ora se poi io ho il binario unico a Messina, cioè è questo che a me non convince. Il ponte piace da un punto di vista politico elettorale, però poi da un punto di vista logistico vorrei un piano nazionale. Allora, su questo, detto questo, lei ha già risposto in parte, Zingales, perché è ovvio che se per fare un ponte sullo stretto, con la grande competenza che ha il gruppo Salini in Pregilo, che ha fatto dighe facendo il raddoppio del canale di Panama, quindi non è in discussione la competenza di Salini in Pregilo, ma ovviamente io mi rivolgo e faccio acquisti anche all'estero, l'impatto è minore. Se invece l'edilizia sul territorio o l'impresa piccola dell'edilizia lascia tutte le risorse che ha sul territorio, perché l'appalto o il subappalto va a ditte del territorio, è più probabile insomma che ne abbia un volano maggiore. La sua posizione mi è chiara. Vorrei capire adesso invece se lei è dell'idea che Deutsche Bank e Monte dei Paschi siano la stessa cosa, anche se non si può dire mal comune mezzo gaudio. Ma diciamo, la storia è molto diversa. Se la possibilità che tutti e due facciano scattare il bail-in, secondo me è elevata. Dal mio punto di vista la differenza è che io mi aspetto che il bail-in del Deutsche Bank non sia così traumatico come quello del Monte Paschi, nel senso che a quanto mi risulta i subordinati del Deutsche Bank sono stati venduti a investitori istituzionali e quindi l'assorbimento sarà, diciamo, poco traumatico, mentre noi sappiamo benissimo che nel caso di Monte Paschi abbiamo 2 miliardi che sono stati venduti coscientemente a investitori individuali, tanto che hanno ridotto la spezzatura da 50.000 a 1.000 euro proprio per rifilarli nelle mani degli risparmiatori individuali. Allora, è questo per quello che riguarda Monte dei Paschi e Deutsche Bank. Dopo il metro, la pubblicità, Zingales, io però vorrei capire la cosa più così, che ha destato maggior clamore nelle sue dichiarazioni. Vabbè, quella contro l'austerity è una battaglia persa, a questo punto bisogna pensare anche alla nostra permanenza nell'area euro, perché insomma, detto da lei, molti non se lo aspettavano. A chi mi scrive, ma insomma... una volta che c'è un investimento poi criticate, la posizione che ho espresso è una posizione personale, quindi non è la posizione del Sole 24 Ore, è la posizione del sottoscritto. C'è un nuovo ponte inaugurato a Istanbul, non vi dice niente, tutto bene, nessuno ha detto che il ponte sullo stretto non serva, bisogna capire che risorse abbiamo e se tra le priorità di questi 5 miliardi la prima sia il ponte. Poi se uno mi dice improvvisamente avete 50 miliardi di investimenti da fare nei prossimi 5 anni, tanto ci metteremo a fare il ponte, allora uno ti può dire certo, mettiamoci anche il ponte. Secondo me, dopo aver fatto la Salerno-Reggio Calabria, dopo aver fatto l'alta velocità e alta capacità fino a Trieste, dopo aver sistemato l'edilizia scolastica, dopo aver digitalizzato il paese, queste secondo me sono le priorità. Poi uno può dire che la priorità è il ponte. Meteo. State ascoltando un programma offerto da Axerta, indaga, documenta, accerta, www.axerta.it. Focus Economia. Minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, professor Zingales, ma cos'è questa cosa per cui anche lei inizia a essere scettico sulla permanenza dell'Italia nell'area euro? Ma guardi, lo scetticismo verso l'euro è una cosa che hanno anche i padri fondatori. Cioè, quando Prodi disse nel 2001 l'euro, così come è stato costruito, non è sostenibile. E su questo ha perfettamente ragione. Poi disse ci sarà una crisi, e su questo è stato molto preveggente, e dice quando c'è la crisi le istituzioni politiche necessarie per sostenerlo verranno create. E su questo finora preveggente non lo è stato. Cioè, ormai sono 8 anni dalla grande crisi e non c'è stata una risposta adeguata. Ci sono stati dei passi in avanti, nel senso che l'unione bancaria, ad esempio, è stato un fatto positivo. Peccato che sia stata bloccata dalla Germania sull'ultimo passo più importante, ovvero l'assicurazione comune dei depositi. C'è stata una politica un po' meno deflattiva della Banca Centrale Europea, ricordiamo il quantitative easing lanciato da Mario Draghi, che ha incontrato un'enorme resistenza a livello tedesco. Allora, la sostanza è... tutti gli economisti sono concordi su un fatto, che una unione monetaria non funziona senza una qualche politica fiscale. Allora, la mia domanda è, dopo 8 anni di crisi e dopo 16 anni qual è di euro, questa politica fiscale non solo non c'è, ma non c'è neppure una vaga intenzione di discuterla. Ricordo quindi, chi ascolta, che politica fiscale non vuol dire politica sulle tasse, ma politica sui bilanci, quindi su deficit, debito e quant'altro, investimenti. Prego, lo interrompo. Ma in qualche misura anche politica anche sulle tasse, tasse comune, anche, perché certo. Voglio dire, noi non possiamo essere ad armi pari, competere ad armi pari con la Germania, con una tassazione che è molto più elevata di quella tedesca, una qualità di servizi che è molto più bassa di quella tedesca, e via di questo passo. La scommessa dell'euro era che noi entravamo e l'Italia si trasformava, come il rospo baciato dalla fatina, in un meraviglioso principe azzurro. Beh, diciamo, portava un elemento di maggiore efficienza confrontabilità dei prezzi. Lo rendo un po' più divertente, ma questa era la speranza, che non era completamente assurda. Però dopo 15 anni vediamo che purtroppo non si è realizzata. Ma non si è realizzata perché l'architettura della casa era sbagliata, o perché qualcuno degli inquilini, in questo senso la Germania, si è messa di traverso, Zingales? Perché primo noi non abbiamo fatto il lavoro per cambiarla, questo non c'è dubbio. Secondo, però, non c'è vista dall'altra parte una volontà di fare i passi successivi per integrare l'Europa. Allora, in questa situazione il grosso rischio che io vedo è quello di finire, come ho detto nella mia intervista, come la rana bollita. Cioè, in una situazione in cui io sono il primo a dire il costo di uscire unilateralmente sarebbe devastante. Okay? Io sono convinto di questo, ed è per questo che non sono qui a essere un no euro che dice usciamo o cose di questo genere. La soluzione migliore è sicuramente, dato le condizioni di partenza, di una maggiore integrazione con una politica fiscale che ci aiuti a migliorarci. Però se questo non viene e non c'è evidenza che si voglia neanche pensarci, che cosa facciamo? Rimaniamo per altri 20 anni in questa situazione in cui non c'è crescita? In cui lentamente le nostre industrie stanno morendo perché non riescono a competere ad armi pari? E ricordiamoci l'esempio che io faccio nel mio libro del 2014, secondo me è un esempio molto calzante, ed è l'esempio dell'Unione Italiana. Cioè, c'è stata un'unificazione italiana che tra l'altro ricorda moltissimo quella europea, perché è stata fatta da pochi idealisti e poi è stata completamente gestita dal nord a spese del sud. E dopo 150 anni abbiamo visto che il sud è un deserto. E non lo era all'inizio, cioè al momento dell'Unità d'Italia la Sicilia aveva un reddito pro capite più elevato dell'Emilia Romagna. Quindi ci saranno state altre motivazioni, non dico che sia unica colpa dell'Unità d'Italia, però non c'è dubbio che il nord italiano, quando c'è stata l'Unità d'Italia, ha gestito l'Italia nell'interesse del nord. E si è comprata baroni del sud elettoralmente i baroni del sud. Questa è la storia. Cioè lei dice mutatis mutandis, sì, abbiamo letto tutti i libri, abbiamo avuto anche ospiti gli storici che ritengono che appunto che vi sia stata una spoliazione del nord verso il sud, in alcune parti sono d'accordo, in altre meno, però detto questo lei dice che mutatis mutandis quello che sta avvenendo, altrimenti è che l'intero processo diretto dai paesi più forti, perché indubbiamente sono più forti come conti pubblici, non solo Germania e quant'altro, va verso una spoliazione e un impoverimento. Allora, chi mi scrive, hai capito Barisoni, bisogna uscire dall'euro? No, io resto dell'idea che l'euro si debba stare. Se poi invece mi dite, avete capito che questa Europa così come è fatta e con questa governance, diciamo, chiamiamola così, non funziona, sono assolutamente d'accordo. A me, guardi Zingale, oltre che la rana bollita, famoso detto per cui se tu vuoi bollire una rana non puoi metterla nell'acqua bollente perché salta fuori, la devi mettere, immergere nell'acqua fredda e poi scaldare l'acqua lentamente, cioè la porti a morte ma molto lenta. A me viene in mente anche un'altra cosa sempre con le rane, la rana e lo scorpione, cioè a me sembra che la Germania si comporti un po' come lo scorpione, perché se poi viene giù l'intera impalcatura non penso che i tedeschi ne possano avere un beneficio, Zingales. Ma secondo me la loro strategia è quella di tirare la corda fino a che appunto la rana non salti fuori, quindi continuano a fare la loro strategia e su questo sono bravissimi, perché ogni volta che si è arrivati di fronte a una potenziale crisi all'ultimo minuto la soluzione è stata trovata. Vedi Grecia per esempio, diciamo. Vedi Grecia, ma vedi anche whatever it takes di Draghi, cioè se Draghi non fosse intervenuto in quel momento la situazione non sarebbe stata sostenibile. No, certo. E lui è intervenuto con il consenso tedesco, quindi secondo me la soluzione tedesca, ma non perché i tedeschi siano cattivi, assolutamente, loro fanno i loro interessi. Io dico Angela Merkel è una bravissima leader dei tedeschi, il problema è che non è la leader dell'Europa. Perché non è stata eletta dagli europei, è stata eletta dai tedeschi e quindi giustamente lei fa l'interesse dei tedeschi. Sì, più volte abbiamo evidenziato come la Germania, essendo il paese più forte, non abbia voglia, anche per motivi storici, di assumersi la vera leadership dell'Europa, che vuol dire pensare a tutta l'Europa se sei più forte, ma è la più forte ma non vuole essere leader, e questo obiettivamente non sta né in cielo né in terra, perché a questo punto fai la leader a livello complessivo. Zingale, se ancora un minuto, perché dopo il traffico l'ultima domanda per lei: come e che cosa dovrebbe fare il governo in questo momento, visto che l'abbiamo criticato, almeno per quello che riguarda me e lei, sulla scelta del ponte sullo stretto? Renzi ha aperto un fronte in queste due settimane dopo Bratislava e la delusione di Bratislava dopo quella che era sembrata essere un'apertura a ventotene su i vertici bilaterali Berlino-Parigi, e l'Italia così non ci sta, noi non veniamo a ratificare le cose. Politicamente e concretamente però, che cosa potrebbe fare il governo italiano? Dopo il traffico e risposte. Axerta indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta Focus Economia. Allora, vedo che alcuni appunto associano la posizione di Zingale sull'unità d'Italia nord-sud con quelli di Pino Aprile, che è lo storico che abbiamo avuto anche ospite, ha sempre scritto, diciamo, di uno sfruttamento. Zingale se lo usava nel mutatis mutandis identificare quello che sta succedendo tra Germania e il resto dell'Europa, Europa del Sud, a quando la conversione di Barisoni, guardate, non essendo un eretico, non mi devo convertire a nulla. Resto dell'idea che l'euro ci serva e che però non si possa andare avanti con questa gestione dell'area euro fatta in quel modo. Cosa dovrebbe fare zingaresi il governo a questo punto, continuare a puntare i piedi oppure accettare, visto che oggi stiamo commentando anche uno 0,5% di maggiore flessibilità che l'Europa sembra concederci, lasciando il deficit al 2,3, sono quasi 8 miliardi. Puntare in piedi o sul principio o prendere a breve, insomma, la flessibilità che ci viene data e fare buon viso e cattivo gioco? Prima di tutto volevo chiarire che non è ovviamente originale mia l'idea dello sfruttamento del nord e del fino sud aprile, Italia. L'abbiamo... L'unica, sì, sì, appunto, l'unica cosa che ho fatto è di applicare questa idea, questa analogia all'Europa, e secondo me questo aspetto è quello su cui vorrei sottolineare, perché questo non è abbastanza discusso in Italia e in Europa. Per quanto riguarda il governo, secondo me Padoan sta facendo meglio di Renzi in questo caso, perché Padoan ha lanciato una proposta che non ha avuto tanta eco, però una proposta importante per un'assicurazione europea contro la disoccupazione, e sarebbe un passo proprio verso quella politica fiscale comune di cui parlavo prima. Purtroppo questa c'è sul sito del Ministero, ne ha parlato qualche giornale, ma non mi sembra che sia la priorità del governo Renzi. Più che appunto combattere su qualche decimale di flessibilità, che è utilissimo per le prossime elezioni, ma non utilissimo per salvare il futuro dell'Italia, secondo me la vera battaglia è una battaglia di principio. Cioè io andrei ai tedeschi e dire: guardate, io capisco che voi non vogliate avere gli euro bonds perché non volete mettere in comune i vostri debiti con i nostri, perché noi ne abbiamo molti di più, io questo lo capisco, però voi dovete capire che non esiste un'unione monetaria senza un'unione fiscale, quindi cominciamo da qualche parte, scegliete voi da dove cominciare, però cominciamo. Se loro ci dicono non vogliamo cominciare da nessuna parte, allora a questo punto è come una coppia che dopo tanto tempo si rende conto che non può stare insieme, allora cominciamo a discutere un divorzio che più possibile consensuale, perché come dico, il divorzio unilaterale per l'Italia sarebbe devastante. Io spero ancora che il matrimonio possa continuare, però a un certo punto è meglio una separazione che un cattivo matrimonio. Allora, su questo non ci sono dubbi, basta che non sia appunto unilaterale, nel senso che ci sono anche separazioni che sono peggio di cattivi matrimoni, se poi portano a guerre, economiche a danno di uno dei due coniugi, in questo caso saremmo noi il coniuge forse più debole, per cui attenzione, ci sono... Allora, meglio una buona separazione di un cattivo matrimonio, meglio un cattivo matrimonio di una cattiva separazione, Zingare, se devo usare il parallelo, perché se dobbiamo perderci solo noi, allora stiamo dentro. Grazie anche Luigi Zingales, che ritroveremo domani per parlare invece di, oggi non ho voluto fare l'approfondimento Trump-Hillary, anche perché mi sembra che di economia sia uscito molto poco. Grazie allora all'editorialista del Sole 24 Ore Luigi Zingales, che appunto che insegna economia e finanza all'Università di Chicago, domani sarà ospite assieme a altri con Giovanni Minoli a Mix 24. Andiamo adesso rapidamente sulla borsa prima di passare al tema dello shipping. Ecco, mi piace l'esempio che fa un ascoltatore, sì, però non è che poi in caso di separazione tocca a noi pagare gli alimenti alla Germania. Esatto, va bene la separazione, va bene, insomma, sarebbe comunque una separazione che non va mai bene di principio, però purché sia consensuale è a vantaggio reciproco, non perché peggiori ulteriormente la nostra situazione, cosa che i faciloni dell'uscita dall'euro non tengono mai in considerazione, sono solo benefici e vantaggi se si esce dall'euro, il paradiso, l'Eldorado, l'Eden, Shangri-La, basta tornare alla riva e ci siamo. Allora, borsa di oggi, meno 0,36% nel finale, recuperano tutte le borse europee, meno 0,20 Parigi, meno 0,30 Francoforte, meno 0,15 Londra, più 0,50 il Dow Jones, Benelux Ottica più 2,5, Fineco più 2, Monte dei Paschi più 1,70, Snam più 1,5, Mediolanum più 1%, male di nuovo le altre banche, Risparmio Gestito, Azimut meno 3%, Mediobanca meno 2,5, Unipol meno 2, Fiat invece meno 2, e Banco Popolare pure, Unicredit meno 1,80, e poi chiudo con Saipem e la Pop Emilia Romagna che perdono l'1,60%. Andrea Fontana, Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera Sebastiano. Sappiamo che c'è sia vicenda Volkswagen ma anche Deutsche Bank di nuovo a pesare, il commento su alcuni titoli dopo il GR24, dicevo 349-238-6666 per sms e WhatsApp. Sono Enrico Ruggeri, anche questa settimana gireremo il mondo e percorreremo la storia sulle ali del falco e il gabbiano. una grande attrice, una donna dal fascino unico, Charlotte Rampling. E poi il gangster rap con quello strano sorriso sulle labbra, Snoop Dogg. È l'unica che muore nel film Via col vento, ma in realtà sopravvive a tutti e vive 100 anni, Olivia de Havilland. Assieme a Vittorio Sgarbi parliamo di uno dei casi più discussi dell'arte contemporanea, Maurizio Cattelan. Travolto dal suo genio, l'uomo che ha inventato Dylan Dog, la storia di Tiziano Sclavi. Vi aspetto tutti i giorni alle 15.30, Il Falco e il Gabbiano. Se negli ultimi 30 anni vi siete persi in qualche universo parallelo, mi presento. Sono Dylan Dog, quel Dylan Dog. Dylan Dog sta arrivando su Radio 24. State ascoltando un programma offerto da Axerta. Indaga, documenta, accerta. www.axerta.it. Focus Economia. Minuti, vorrei concludere l'approfondimento di Borsa con Andrea Fontana. I titoli li abbiamo già dati, oggi di nuovo debolezza sulle banche tranne il Monte dei Paschi, il motivo si chiama ancora Deutsche Bank, Andrea? Sì, sicuramente, soprattutto perché non ci sono state novità, diciamo così, dopo lo scontro di ieri sul tema degli interventi o meno degli aiuti di Stato. Ci si aspettavano appunto delle indicazioni ulteriori che non sono arrivate, e questo chiaramente ha alimentato l'incertezza, ha lasciato gli operatori in una forte incertezza, anche se va detto che Deutsche Bank alla fine ha perso in maniera limitata, ha perso circa lo 0,6%, e il settore banche non è stato tra i peggiori, almeno in Europa, mentre i nostri titoli hanno ancora una volta sofferto. Bene, però è andata anche Fineco Bank, qui c'è notizia. Per quanto riguarda Fineco Bank, è tornata ad essere inserita tra gli asset, secondo le indiscrezioni, che Unicredit potrebbe dismettere, potrebbe cedere per cercare di aumentare l'impatto del suo rafforzamento patrimoniale e di ridurre contestualmente la necessità di mezzi freschi, quindi di aumento di capitale, e il titolo ha guadagnato il 2%. Allora, ancora sui titoli, devo dire oggi Fiat anche debole, abbiamo visto il problema che ha la Germania o Volkswagen con le autorità americane, adesso c'è tra l'altro anche un botta risposta, sembra una guerra sotto traccia tra Berlino e Washington, perché adesso il garante per la protezione dei dati personali della regione di Amburgo ha vietato a Facebook di raccogliere nuovi dati dei circa 35 milioni di utenti tedeschi di WhatsApp, e gli ha intimato di cancellare quelli raccolti. Ma dicevo, al di là della vicenda Volkswagen, Fiat cede anche il 2% per motivi suoi. Sì, sicuramente l'indicazione che è arrivata dall'EPA, cioè dall'Agenzia Americana per la Protezione dell'Ambiente, sull'adeguamento necessario per Fiat agli standard sui consumi entro il 2025, e una stima di oltre 5 miliardi di dollari di investimenti necessari per fare questo adeguamento, non è piaciuta agli investitori, così come il tema ancora non risolto delle trattative con il sindacato del settore per il rinnovo del contratto in Canada di 10.000 dipendenti. Sono temi che alimentano l'incertezza, soprattutto per quello che riguarda le emissioni e l'aspetto ambientale, che tanto peso sta avendo su Volkswagen, ovviamente. Ancora fra i titoli Mediaset, oggi c'è il consiglio di amministrazione dove ci si attendeva qualche novità sulla battaglia legale con Vivendi, il titolo ha chiuso in rialzo dello 0,60%. Sì, il titolo è rimasto piatto o leggermente debole per tutta la seduta, recuperando sul finale dal consiglio d'amministrazione di Mediaset. Tuttavia non è arrivata quello che il mercato si aspettava, cioè un segnale, una controproposta da parte di Vivendi per avviare nuove trattative, quindi arrivare a una nuova soluzione della questione della Pay TV venduta ai francesi con un contratto vincolante, ma poi diciamo non completata nel fino a questo momento, e il consiglio di amministrazione ha invece deliberato di proseguire nel contenzioso, quindi non era certo la risposta che il mercato si aspettava, perché si continua nello scontro e una soluzione ancora non si vede. Allora, migliori e peggiori in assoluto, oggi Deutsche Lufthansa meno 11%, Molmed meno 10,60%, Zucchi meno 6,25%, Monriff meno 6,10%, fronte opposto invece Falck Renewables più 5,70%, Industria Innovazione più 4,70%, Poligrafici Editoriale più 4%, Elen più 3,22%. Grazie ad Andrea Fontana, Radio Corriere sulle 24 ore. Allora, torniamo sugli ultimi due temi. Da un lato la crisi dello shipping, ci arriviamo tra un attimo, e la proposta di Renzi di oggi sul ponte sullo stretto. All'interno però di un pacchetto un po' diverso, cioè la flessibilità che l'Europa sembra intenzionata a concederci, lasciandoci il deficit al 2,5% e non all'1,8% come avevamo promesso. 0,5 punti di PIL vogliono dire circa 8 miliardi in più di flessibilità. Vedo molti che mi scrivono, ma allora lei è contro il sud, non vuole il ponte sullo stretto, ogni volta che si parla di un investimento al sud lei è contro, è anti... No, ma scusatemi, ma perché gli investimenti infrastrutturali sulla digitalizzazione oppure sull'edilizia scolastica, sulla messa in sicurezza del territorio non devono riguardare il sud? Chi l'ha detto? Mica sono solo relativi al nord, ho solo detto che nelle priorità che noi vediamo... con i conti pubblici che abbiamo, con i margini che l'Europa ci concede con difficoltà, dire che il ponte sullo stretto è una priorità del paese, secondo noi non è vero, e soprattutto è tutto da dimostrare che il volano sull'economia nel breve sia più efficace se tu spendi 5 miliardi sul ponte e non se tu spendi quei 5 miliardi per fare opere sul territorio di portata minore, di taglio molto minore, ma anche di una ricaduta immediata su quel territorio. Sappiamo che le grandi opere giustamente vedono anche molti acquisti all'estero, non è che tutti questi soldi restino poi in Italia. Sugli appalti alle scuole, per esempio, o la messa in sicurezza del territorio, hai più possibilità che l'appalto o il subappalto resti come, diciamo, ricaduta economica nel territorio. Però io chiedo lumi a Dino Peso del Sole 24 Ore. Buonasera Dino. Buonasera. Prima di tutto facciamo sentire però Renzi sia sul patto di stabilità, in cui ha annunciato che gli interventi sulle scuole e quindi l'edilizia scolastica, riferendosi anche ai terremoti, saranno fuori dal calcolo del deficit, e poi l'annuncio che si possono creare 100.000 posti di lavoro, ha detto a Pietro Salini, visto che si stavano celebrando i 110 anni del gruppo Salini in pregilo a Cernobbio, ha detto insomma attenzione, Salini gli ha risposto: noi siamo pronti anche domani a sbloccare il cantiere. Vedo che poco fa l'ANAS, il presidente dell'ANAS Armani, ha detto: siamo pronti a riavviare il ponte sullo stretto, siamo ancora proprietari della società Stretto di Messina, soprattutto adesso che a dicembre sarà terminata la Salerno-Reggio Calabria possiamo metterci al lavoro sul ponte sullo stretto. Sentiamo Renzi. È del tutto ovvio che non possiamo dire alle famiglie che soffrono la preoccupazione del giorno dopo giorno che, sai, non possiamo fare l'intervento sulla scuola perché mancano i soldi europei. La stabilità dei nostri figli vale almeno, io dico di più, della stabilità delle burocrazie europee. Dunque i sindaci devono tornare a progettare, perché tutto ciò che servirà per la manutenzione e l'adeguamento sismico sarà nuovamente liberato dal patto di stabilità. Completare il collegamento tra Napoli e Palermo in un'operazione che porti non soltanto posti di lavoro, come è sacrosanto, 100.000 posti di lavoro, ma che sia utile. Perché tu devi fare una struttura che sia in condizioni di togliere la Calabria innanzitutto dall'isolamento nella quale è, e poi che consenta di tornare anche ad avere una Sicilia più vicina e raggiungibile. Io su questo vi sfido, perché noi siamo pronti, abbiamo dimostrato che a noi poche cose fanno paura. Per cui se voi siete nelle condizioni di portare le carte e di sistemare ciò che è fermo da 10 anni, noi lo sbocchiamo. Allora, al di là del fatto che poi vorrei anche capire se a questo punto cosa succederà dei soldi che noi abbiamo già pagato ai privati, perché l'idea di Berlusconi ci è già costata 1 miliardo, nel senso che prevedeva un ponte a campata unica di 3 km e 300 metri, la più lunga del mondo, sostenuto da torri alte 380 metri, in grado di resistere a terremoti di magnitudo 7, 6 corsie stradali a due binari, 490 km di raccordi stradali, costo stimato tra i 4 e 5 miliardi stimato, speso già 1 miliardo dallo Stato tra studi di fattibilità, penali e appunto poi 300 milioni che Monti ha messo per liquidare la società Ponte sullo Stretto. Ma Dino, io vedo anche i messaggi, il timore o il sospetto che possa essere anche una dichiarazione di carattere elettorale, ieri abbiamo avuto la data del referendum, inutile girarci attorno, ce l'abbiamo tutti. Allora sì, certamente è difficile sfuggire da questo tipo di considerazione preliminare, questo retropensiero, però limitiamoci un po' al fatto. Allora, del tutto evidente che per il nostro paese, che stenta a crescere, lo vediamo dagli ultimi dati, spingere sulla leva degli investimenti è assolutamente prioritario. E siamo tutti d'accordo su questo. Siamo tutti d'accordo. Allora, il problema è capire quali investimenti, perché non sono tutti uguali evidentemente, e soprattutto su quali investimenti si può puntare per far finalmente decollare la nostra economia. Quindi investimenti, come si dice oggi, che siano cantierabili in tempi brevi, che abbiano un impatto visibile, reale e quantificabile sul PIL, dunque sull'occupazione. Questo è il punto fondamentale. Allora, il ponte sullo Stretto, lo sappiamo tutti, è un'opera faraonica, se ne parla dagli anni 50, sono stati messi in piedi gli studi, i progetti, è stato speso gli anni 2000 in tentativi, poi lo stesso Berlusconi lo rilanciò nel 2001, il governo Monti l'ha congelato, c'è una parte di contenzioso ancora aperto. Allora il dubbio, secondo me, è legittimo, che occorre avanzare rispetto a questo annuncio è che se si tratti effettivamente di un'opera prioritaria per il Paese. Su questo probabilmente c'è da sollevare una qualche obiezione. Perché... Ma infatti io vorrei essere chiaro, ripeto, non è che uno dica il ponte sullo Stretto non serve, è sbagliato a prescindere. Ho detto come battuta, avessimo 50 miliardi da investire veri nei prossimi anni, uno mette a posto le scuole, il rischio di dissesto, anzi il dissesto idrogeologico di questo paese, fa la digitalizzazione del paese, conclude l'alta velocità e la T famosa, no, perché manca ancora la parte con tempi molto lunghi da Milano a Venezia e poi Venezia a Trieste, fa questo, non è vero che i soldi non arriverebbero al sud perché dissesto idrogeologico e da questo punto di vista edilizia scolastica vanno anche al sud, porta una logica e un piano di logistica portuale in primo luogo e a quel punto fai anche il ponte. Il problema è che mi sembra di capire che qua abbiamo ottenuto forse per fortuna, non dico per miracolo, 8 miliardi in più di flessibilità, ma non capisco, diciamo, come possano essere messi a budget questi soldi. Comunque Dino, allora gli 8 miliardi di flessibilità di cui si parla adesso, per ora c'è solo un'intenzione politica, adesso poi vediamo se a novembre, quando la Commissione Europea darà il suo giudizio sulla legge di bilancio, effettivamente saranno autorizzati, ma sembrerebbe di sì. In ogni caso sono limitati, fortemente limitati, a due categorie di spese, e cioè l'emergenza terremoto, e non si sa se all'interno di questa emergenza si possa o no far confluire anche il piano che Matteo Renzi vuole mettere in atto, il cosiddetto piano Casa Italia, per mettere in sicurezza gli edifici. Ma pur ammesso che questo sia, si aggiunga poi un tot, miliardo forse, per l'emergenza migranti, e con lì arriviamo a questa cifra. Ma non si può immaginare che con la flessibilità che ci viene concessa, o torto collo, perché questa volta sembra che il confronto sia stato piuttosto acceso tra Roma e Bruxelles, possa risolvere tutti i nostri problemi. Noi abbiamo la necessità assoluta, prioritaria, di spingere il pedale sull'acceleratore sulla crescita. E bisogna farlo con gli strumenti che noi abbiamo, non si può immaginare che ci dia Bruxelles. Va benissimo che queste spese siano scorporate dal calcolo del deficit, ma lo dice già il patto di stabilità, non c'è bisogno di una particolare concessione, tra virgolette, da parte della Commissione. Il patto di stabilità prevede già che in presenza di eventi eccezionali, e cita espressamente le calamità naturali, ci possa essere un momentaneo spostamento dagli obiettivi deficit. Nulla di nuovo, c'è, cioè, già nella flessibilità. Sì, il problema è che adesso lo dico senza essere cinico, ma non è che possiamo immaginare che l'anno prossimo ci sarà un terremoto, ci dobbiamo non augurare del tutto, e anche i flussi migratori, per carità, però questa flessibilità, fai bene a ricordarlo, ci arriva per cose specifiche ed emergenziali, terremoto e flussi migratori. Immaginando un 2017, che magari non sarà così, in cui i flussi migratori rappresentino meno un problema, e augurandoci che non vi sia nessun altro terremoto, cioè tu non puoi andare a chiedere altra flessibilità all'Europa senza queste variabili eccezionali. Questa è la cosa che mi lascia un po' perplesso, e vorrei capire dove sono i soldi per anche solo ipotizzare di tornare a investire sul ponte. Esattamente, perché poi se facciamo due calcoli molto brutali di questa manovra, che sarà, adesso no, stasera avremo le grandi cifre, ma la manovra vera e propria la conosceremo tra un mese, e beh, vedremo sicuramente che all'interno di una manovra di bilancio che si aggira al momento attorno ai 22-25 miliardi, è sostanzialmente quello che resta, esclusi i 15 miliardi che servono a evitare che aumenti l'IVA, ricordiamolo, perché quello sennò c'è la manovra che vuole ridurre le tasse, per primo, il primo obiettivo che è quello di evitare che aumentino. Certo. Una volta ottenuto questo obiettivo, e lo si fa in parte con maggior deficit, quello che resta e che manca al momento va finanziato, perché tutta la le misure allo studio su, sulle pensioni vanno benissimo, l'aumento della tassaria, la tutela dei lavoratori precoci, quello e quanti ne vogliamo. Però si tratta di 1,5 miliardi, 1,7 miliardi, forse 2, che vanno finanziati. Come si fa a finanziarli? E qui torniamo al solito eterno problema: l'unica strada è quella di mettere mano alla spesa pubblica. Ma infatti, vabbè, io qui mi fermo, perché la mia idea penso che si sia abbastanza capita oggi sul ponte sullo Stretto come non priorità, e tra l'altro anche non coperta in questo momento da quello che vediamo sulla disponibilità finanziaria. Stranamente oggi nessuno mi scrive che sono un filo renziano, perché vorrei sapere dove sono finiti tutti gli ascoltatori che, insultando ogni giorno, dicono che siamo proni a 90 gradi, a pigre mezzi nei confronti del governo. Io ribadisco che cerchiamo di pensare con la nostra testa, che poi quello che pensiamo sia in linea con quello che dice il governo o contro quello che dice il governo, poco cambia. Grazie Dino Pesole, traffico, chiedo scusa per il ritardo, e poi iniziamo, non ce la faremo a finirlo, il tema di questa crisi mondiale che sta attraversando lo shipping, ossia chi trasporta le merci via nave con i cargo. JP Morgan Asset Management vi presenta Focus Economia. Allora, no, sorrido perché un ascoltatore e dice: lei ha annusato l'aria e sentendo la vicina la futura vittoria dei 5 Stelle si è già messo al servizio dei suoi nuovi padroni. Mamma mia, ma avrei veramente un fiuto da Segugio. Mi sembra che 5 Stelle, intanto dai 5 Stelle vorrei sapere a Roma, visto che ancora non avevamo parlato, quando arriverà l'assessore al bilancio. E comunque l'aria che annuso io, mi dispiace, non è quella che pensa lei, non uso nessun'aria. Cerco di respirare, che è un po' diverso. Invece qualcuno scrive: ecco la differenza tra un politico ed un esperto di economia, non c'è solo la variabile economica ma anche quella sociale, far sentire la Sicilia e i siciliani integrati in questa nazione. È l'isola più bella del Mediterraneo, potrebbe diventare una miniera d'oro. Guardi, siamo d'accordissimo, sul turismo abbiamo fatto decine di puntate. Faccio notare che se però questo paese ha il secondo debito più grande al mondo, forse perché i politici si sono occupati poco di economia e più di consenso sociale a breve, possiamo dirlo, che non siamo esattamente la Germania o la Svizzera nella gestione dei soldi pubblici, possiamo dirlo? Adesso sembra che qua ci occupiamo solo, magari ci fossimo occupati solo di tenuta dei conti, avremmo regalato un paese un po' diverso ai nostri figli. Invece con Giampaolo Botta, direttore generale di Spediporto, che è l'associazione degli spedizionieri, corrieri e trasportatori di Genova. Buonasera Botta. Buonasera a lei, buonasera a tutti. Voi vi abbiamo chiamato perché avete fatto un accordo proprio con l'Engine Shipping, quella che è andata a crack, che prevede la firma di una polizza fideiussoria per accelerare lo sblocco delle merci rimaste in territorio italiano. Io devo rinviarla, non come fa un maestro, ma insomma, perché voglio parlarne e ampiamente di quello che sta capitando al mondo dello shipping. Insomma, Engine ha bloccato 86 navi con 15 miliardi di dollari di carico che vagavano per i mari senza che nessuno volesse farle attraccare per timore che non pagassero i servizi di nolo. Solo la fermata in un porto per lo scarico costa 35 mila dollari, ma 11 dei 12 più grandi operatori globali sono in gravissima difficoltà. E mi dà un titolo e poi riprendiamo domani. Che cosa sta succedendo al mondo dello shipping? calata la domanda o troppi operatori? Ma allora, al mondo dello shipping, beh, si propone forse un caso quasi unico, perlomeno rarissimo. Cioè, abbiamo assistito al crollo improvviso di una delle prime 10 compagnie armatoriali al mondo, senza che il mercato avesse percepito in maniera sufficientemente chiara i rischi o segnali preoccupanti di quello che stava avvenendo. Ora, lei giustamente ha citato il fatto che nel mondo ci sono diverse decine di navi di proprietà Anjin, ma anche di proprietà di armatori che hanno noleggiato ad Anjin le loro navi, ferma ad aspettare e a capire cosa sta succedendo nei porti in riferimento alla possibilità non soltanto, voglio dire, del rischio, ecco, di non avere liquidità per pagare i costi ordinari, dalle tasse portuali a quelle di bunkeraggio e quant'altro, ma soprattutto c'è il rischio delle aggressioni da un punto di vista dei creditori della compagnia, che ovviamente adesso stanno puntando alle navi, ai contenitori per soddisfare. Esattamente. Allora, domani, che la avremo ospite, mi racconterà poi anche in generale, perché non c'è solo il caso Anjin, ma ci sono, ripeto, 11 su 12 sono in gravissima crisi. Che cosa non sta girando nel mondo del trasporto merci? Ci interessa anche da vicino, e interessa da vicino anche alcune banche. Le banche tedesche sono esposte per 80 miliardi. Da questo punto di vista, vedo una dichiarazione di Cantone, commissario anticorruzione, che dice: vabbè, il rischio di infiltrazioni mafiose non deve però far fermare le opere pubbliche. Questo vale in generale. Infatti, il nostro punto non era questo, era la priorità o no del ponte. Ne riparleremo anche domani. Intanto, da Sebastiano Barisoni, l'auguro di una buona serata. Radio 24. La passione si sente.